Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Era come sempre, come ogni mercoledì, live direttamente. Da che provincia venite, ragazzi? Da Mantova. Anche Reggio. Reggio e Mantova. Non tagliamoli fuori. No, noi due veniamo da Mantova, però gli altri vengono da Reggio. Benissimo, una parte da Reggio e una parte da Mantova. Stasera da Mantova, chiaramente. Sì. I Babilonia, buonasera ragazzi, come state? Buonasera a tutti, buonasera a te. Buonasera a voi. Abbiamo fatto un buon viaggio. Avete fatto un buon viaggio, sì. Siamo arrivati, è importante. Sì, diciamo che siamo arrivati. Circonvallazione di Padova 8 volte, ma poi dopo... Sì, è stato un bel momento, soprattutto esatto. Quando mi hai piantata qua da sola e tu sei andato via. perché cercava il parcheggio praticamente. Certo. Suona, poi lo vedo partire. Scusa. Siamo arrivati lo stesso. Esatto. Siamo arrivati fatta. Per fare 2 ore di live. Stasera yes. in regia abbiamo il ritorno del mitico Michele Tosò. Oh. Grazie Michele. Grazie. Ciao Michele. E abbiamo anche Roberto Baldi che assiste Michele. Grazie, stasera. Roberto. Babilonia. Yes. Com'è nato il progetto, Fabrizio? Tu sei il leader della band, stasera ci sei te e Francesca. Esatto, allora nasce tanti anni fa, ero ancora un ragazzino, no scherzo. No, sei ragazzino, rispetto a me sicuramente. Nasce più o meno 5 anni fa, io ho scritto dei pezzi e ho trovato degli amici e ho detto facciamo sta band. Proviamo a fare qualcosa di originale. Abbiamo sempre fatto cover o così. Tu hai fatto tanti band, sì, continui il progetto dei Rolling Stones, esatto. Perché tutti hai voluto provare, cominciare a fare le band cover e poi chiaramente hai detto no, voglio fare cose mie. Ma avevo già provato da piccolo questo. Mi dicevi a 14 anni hai già cominciato a suonare, vero? Sì, esatto. Beh, avevo già cominciato a suonare prima, la mia prima serata l'ho fatto a 14 anni. Hai fatto 2 pezzi di Jackson Brown, ragazzi. Sì, sentite, esatto. 2 pezzi di Jackson Brown a 14 anni, esatto. Quindi è molto avanti, eri molto avanti. E avevo già scritto dei pezzi negli anni 80, però con le band che formavamo allora tutti volevano fare le cover, ma Bob Dylan, comunque Springsteen o... Sì, chitarra e voce, chiaramente. Esatto. E quindi non riuscivo mai a mettermi giù con delle band a fare i pezzi miei, fino a quando ho detto mi si è illuminata. Sì, esatto. Citiamoli questi amici. Riccardo, Mattia, Marco, poi cercavamo. Avevo cominciato io a cantare, sinceramente, perché ho detto, no, mi metto io la prova. Terrore canto io. Francesca, dimmi, Francesca non è d'accordo che. No, infatti, ma nessuno era d'accordo. Ma neanch'io non ero d'accordo. E poi abbiamo trovato, dopo varie selezioni di maschi, abbiamo trovato una ragazza. Diciamo che sono l'unica che vi ha risposto. Beh, tu sei stata la seconda che ci ha risposto. Ah, sì? Dopo Irene ci ha risposto. Ecco. Tu. Perché nel primo album c'era un'altra cantante. Sì. Che era Irene, che ha partecipato al primo album. E niente, poi dopo è nato e insomma ci siamo divertiti. Prima si chiamava News, si chiama News? Notizie nuove, novità. Esatto, perché per noi, anzi, è nato da me il fatto della novità, di fare qualcosa che non c'entrava niente con la logica della musica che c'è adesso in giro. È un disco un po'... di nicchia, non è commercialissimo. Sì, esatto. Avete autoprodotto totalmente sì, voi, assolutamente come questo da solo. Sì, tutti e due. E abbiamo provato a fare qualcosa di che poi non c'è niente di nuovo. Direi che non è altro che andare a rivisitazioni degli anni 60 e degli anni 70, che è poi la musica che ho tratto io. Tu fai parte di quella di quel periodo lì, quel periodo là, anche sottoscritto un po' prima di te, chiaramente. Però forse tu l'hai vissuta meglio, magari. Sì, l'ho vissuta meglio, non so. Io l'ho vissuta. E non è male. Però non è male. nel primo e nel secondo c'è qualche richiamo. Sì, nel secondo un po' più grunge. Secondo è più duretto nel senso più duro, più rock. Ma anche più cattivo, più cattivo. Anche come i testi. Come mai sono evoluti più sociali, più che entrano dentro al discorso? Ma sai, non è che io sono uno che scrive musica da quando sono nato, non sono un cantautore. Quello che mi è venuto in mente l'ho scritto. No. È un cantautore anche lui, tra l'altro. Basta che non arriviamo più a casa. Per carità, non fa parte del nostro DNA. No. Lo rispettiamo, ma non fa parte del nostro DNA. e niente, così. Ma perché ridi, Francesca? No, non voglio prendere distanze, è un grandissimo artista. Sì, ma non fa parte. Però non lo sento. E basta, mi ha fatto perdere il filo. Puoi parlare tu, però, se vuoi. Di. Allora, no, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. No, parlavi dell'evoluzione rispetto al primo disco. Ma appunto perché, non essendo un cantautore comunque professionista, professionale, quello che mi viene, ho cercato di scriverlo senza stare a pensare a quello che dovevo scrivere, cercando di dare una logica giusta, e poi andava bene con la melodia che ci mettevo, e punto. Allora, tu suoni la chitarra? Sì. Elettrica ed acustica? Sì. Sì. Hai 8 chitarre a casa, hai detto, sì, praticamente. Però sì, ti piacciono le chitarre, esatto, sei un chitarrista. Sì. Poi l'altra band, come abbiamo citato i nomi, provi a sentire anche gli strumenti. Giusto, c'è Riccardo che suona il basso, e il contrabbasso e tantissimi bassi. Mm-hmm. È quello che ama particolarmente la ricerca degli strumenti. Esatto. Quello lui, che va in giro per il mondo. Lui colleziona strumenti. Mm. Ma anche chitarre o sitar, qualsiasi cosa. Mi dico che quanti strumenti ha? Ma non so, avrà un centinaio di strumenti. Sì, ne ha tantissimi. Tutti particolari. Sì. Poi? Poi c'è Mattia che suona la chitarra, che sarebbe il solista della band. Anche lui ha diverse chitarre. Anche d'epoca. Sì. Beh, a proposito, cari ascoltatori, voi non lo sapete, però stasera Francesco ha portato una chitarra del che è databile nel 1989, che in America non lo fanno più. Esatto. Esattamente. È una chitarra che odora di Springsteen. Esatto. Cristiana al 100%. Esatto. E poi diciamo il batterista? Sì, il batterista, che lui ha diverse batterie, ha rischiato anche divorzio. Sì, perché amava più la batteria di qualcosa d'altro. Esatto. Non c'era neanche più spazio in casa, quindi ha dovuto ritagliarsi. E la Francesca che canta, che è bravissima. È Francesca, certo. Francesca è un'ottima cantante. Com'è stato l'approccio con i Babilonia, Francesca? Ma Dio. Non è stato bello. Se devo dire come ci siamo incontrati ad una festa della birra, giusto? È vero. È una bella occasione. Sì, è stato un momento di socializzazione. A Reggiolo. Superata la prima impasse, il primo trauma, lui per tenermi a battesimo mi ha lavato. Ti ho lavato? Sì. Sì, primo concerto che ho fatto mi hai rovesciato la bottiglietta addosso. Dell'acqua però. Sì. Dell'acqua. Simpatica la cosa, no? Simpaticissimo, gradito tantissimo. No, vabbè. Era l'inizio. Sono un gruppo di mattacchioni. Benissimo, quindi sei entrata anche a te a far parte della band. Adesso per iniziare, apriamo la nostra consuetudine, aprire la finestra. Apriamo la finestra su un pezzo del primo disco, però. Abbiamo scelto un pezzo del primo album, da News. Lo puoi presentare un momento, Fabrizio? È proprio News. Sì, proprio News, la title track. Esatto. È stato l'ultimo pezzo del primo album registrato, che non c'era. Cioè, nella scaletta originale non c'era. Non c'era. Mm. E poi quando siamo andati in sala di incisione abbiamo detto facciamo questa perché è troppo bella, e l'abbiamo registrata di getto subito, primo colpo immediatamente. Esatto. E quindi l'abbiamo, ok, è andata così. La sentiamo. Senza età, piccoli di cultura, senza identità. Resto abbagliato, tanto senza età. Radio Rock Wave, l'onda del rock, Ok, abbiamo sentito News che apriva il primo che apriva la title track, anche se poi è stata inserita per l'ultima nella scaletta, ma il primo fa parte del primo album. Per il momento Fabrizio, parlavamo con Fabrizio dell'andamento del pezzo. Tanto Fabrizio suona l'armonica, dobbiamo dire che Fabrizio suona un po' di tutto. Lui dice male, ma non è vero, suona un sacco di strumenti. In questo momento, nel pezzo, ha suonato l'armonica. Poi c'è il chitarrista, il principe, il leader, sì, dal punto di vista strumentale, che gioca nel senso positivo del termine, a certi riff molto americani, sì, ma è molto positivo. E questo era un pezzo che odorava di blues, rhythm and blues, un pochettino americano, molto anche un rock sudista in qualche momento, sì, secondo sì, me. Cosa sì. dici per me? Certo, cioè, sono d'accordo. Ci sono dei piccoli riferimenti. Beh, sono giusto che ci siano riferimenti. Country, blues, sì. L'America, stelle e strisce. Tu sei d'accordo, Francesca? Assolutamente sì. Come lo esegui questo pezzo dal vivo, quando lo fai? Dai un po' più di impulso. Oddio, non lo so. No, nel senso che penso di avere un piccolo pregio. Bicio, non so se sei d'accordo, di essere perché un po' Fabrizio si chiama Bicio. Sì, scusatemi. Per gli amici non lo sanno, Bicio. Ma perché ogni componente della band ha un nomignolo, vero? Sì, più o meno, sì. Più o meno, dai. Più o meno. Io ti chiamo Fabrizio, dai, quello stesso. No, tranquillo. Sono interpretativa, dai, almeno quello riconosci. Molto interpretativa. No, dicevo, i difetti che mi danno. No, perché difetti? No? Cioè, dai, una versione leggermente più accentuata, questo sì, voglio dire, rispetto sì, a questa versione del disco. C'è un po' più pathos. È più pathos, esattamente. Molto questo rock blues è un po' più tirato, un po' più, sì, più pomposo, un po' sì, più sì, potente, sì, praticamente. L'idea di fare questo pezzo come ti è venuta, Fabrizio? È stato tagliando un pezzo sì, di legno oppure no questo non, Fabrizio no, come il lavoro fa legnano, non stavo tagliando, però no, le parole mi sono venute penso in macchina e me ne sono tenute in mente 4-5 cose, le ho bozzate e poi dopo sono andato a casa e a casa ho sviluppato il pezzo. Questo me lo ricordo bene perché è stato l'ultimo pezzo che ho scritto del primo disco. Esatto. Una cosa volevo chiederti: quando abbozzi un pezzo, crei un pezzo, prendi la chitarra in genere penso e fai un sì, po' di accordi, poi vai in studio con gli altri e comunichi con gli altri dicendo io ho fatto questo pezzo, questo riff, come lo sentite voi? Com'è il discorso di amalgama fra di voi? Questo mi interessa. La prima risposta è al fa schifo. Tradotto fa schifo. Sì, esatto, infatti succede sempre così, ma dai, ma cos'è? Questo qui assomiglia a... E poi dopo stai lì un attimo. Ma anche se assomigliasse a qualcosa, qualcosa assomiglia, però al momento non ci viene, però al fa schifo. Poi dopo, no, poi dopo nasce e in poco tempo si sviluppa perché l'accordo è quasi istantaneo vostro, sì, o no? Sì, o fa sempre fa schifo. Ma ti dico no, che no, il fatto che è una battuta, la comunicazione che abbiamo tra noi 3, 4, 5 con Francesca. Che abbiamo tra noi, cioè il pezzo nasce subito proprio perché c'è questo questo legame, questa sinergia, sì, esatto, sì, questa energia cosmica, sì, è una cosa troppo grossa forse, sì, però immediato. Un legame immediato, sì, sì, sì. E quindi si sviluppa, esatto, chiaramente. Bene, sviluppiamo anche noi 22:19, quasi 22:20 e dobbiamo sviluppare, è quasi dobbiamo ora di sviluppare, dobbiamo suonare? Sì, Bicio, cosa suoniamo? Un'altra storia, è la title track questa dell'album nuovo, certo, okay. Sì, sì, allora aspetta, Sì, sì, tutto dal vivo, tutto dal vivo. Un attimo che ci si organizza. Ok. Sei a posto? Io sì. Ok, parto io? Pare di sì. O parti tu? Bicio. Bye. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, un'altra storia, la title track. In una dichiarazione avete detto questo: il nostro è un progetto pensato a lungo termine, ogni album è uno sviluppo ulteriore, un altro viaggio, un nuovo percorso da sviluppare. Secondo me l'hai detto tu, Bicio. Sì, l'ho detto io. L'hai detto te, Bicio. Okay. In un'intervista il tempo fa. Sì, esatto. Non so, non mi ricordo però che perché l'ho detto, forse sai, magari no, a volte si prendono sostanze. No, perché non è vero, c'è continuità. C'è una continuità rispetto al disco precedente, sì, c'è un'evoluzione, si va avanti. Si cerca da sempre news ad un'altra storia. Si parla sempre di vicende. Certo. Sì. Esatto. Sì. Quindi diamo una continuità, però cercando di di vederla magari in un altro modo. Certo, certo, ma poi anche per dirti che il primo album c'era una cantante, il secondo album un'altra cantante, quindi c'è un'altra storia, già un'altra evoluzione. Nel terzo ci sarà un'altra cantante. Un'altra cantante, infatti la stiamo già cercando. Sì, sì, alle selezioni ci sono anch'io, come Mara Maionchi. Per me no! Quindi praticamente c'è uno sviluppo, una ricerca di nuove sensazioni, di nuove emozioni. Una ricerca, questo è importante. Una ricerca. Non fermarsi mai, quello è il problema. No. Infatti avrei degli altri pezzi, poi vediamo con Francesca se vediamo. Altre idee che continuano, perché dobbiamo sottolineare che che Fabrizio è una fucina di idee, un sacco di... No, tantissime. A volte anche meglio, ci accontenteremmo di meno a volte, infatti. Però... Ma quanti pezzi hai scritto che per motivi diversi rimangono nel cassetto? Ne ho... Tanti. Io... Tanti no, no però io solo qua ne ho 4 per sì, intenderci. Però no, ne ho una trentina. Una trentina già fermi, pronti, però sì. Per motivi diversi non ancora pubblicati. Sì. Mi piacerebbe scrivere un concept album. Come mai ti piacerebbe scrivere un concept album? Perché mi piace il fatto. Surprise. È tuo. No, li ho spenti. Allora spegni i telefoni, no? Bicio, cioè... Premessa, no. Cioè Fabrizio che sta spegnendo tutto quello che ha attorno e poi dà la colpa a me, perché funziona sempre così. Anche la strada per venire qua, noi non la trovavamo, è colpa tua, non è vero? Ci sei anche tu. Comunque, no, dicevo, mi piacerebbe scrivere un concept album, sì. Una storia. Come si usava una volta. Sì, mi piacerebbe scrivere una storia. Beh, un'altra storia può essere... Però anche... l'idea giusta mi serve. Ma l'idea già di un'altra storia può portare... a un concept album, un'altra storia, anche quella può essere una non dico che questo sì, sia però, un concept cioè, album qui, però dimmi, c'è qualcosa in questo album che lega, può non, legare non tutto ma qualcosa che lega sì, però mi piacerebbe proprio raccontare una storia come faceva Pete Townsend quando raccontava Tommy o Quadrofini o... Fammi vedere la maglietta che c'hai da me, no? Quella maglietta c'è The Who. Pete Townsend, Doce, The Who. Esatto, beh, comunque sì. Tu li hai visti quando c'è stato il famoso uragano d'acqua all'arena, Verona, sì. All'arena di Verona. Quanto Roger Daltrey, no, non ce la faccio non ce la faccio più. Non avevo più voce. Però è arrivato Pete Townsend col suo libretto di canzoni e ha detto ci penso io. Grande. È un grande. Sono sempre stati dei grandi, dei grandissimi. Ma ritornando al vostro disco, un'altra storia, è un ulteriore evoluzione del sì. Disco precedente anche dal punto di vista musicale. Siete, qualcuno ha scritto siete più duri, nel senso più pomposi, più corposi, più rock. Sì, più rock. Francesca ce l'ha permesso, la sua Francesca voce. Ha dato una svolta all'linearità del disco precedente. E vero, anche... Francesca? Sì, sono entrata, ho detto ego vi absolvo. Sì, ma non lo so, per me è un processo che è diventato molto spontaneo, nel senso che loro sono degli allegroni, ma è vero, e ho visto che stavano già iniziando a dare molto corpo a... Abbiamo dimenticato allegroni, nelle tastiere c'era quello che suona con i Modern City Rambles. Ah sì, Leonardo Giavetti, esatto. Abbiamo citato. Sì, che lui suona i Modern City Rambles. Esatto. Che li ho visti di recente, sì, in televisione c'era il concerto. Erano concerto lunedì al concerto per l'Emilia, sì, esattamente. Tengo botta. E lui è proprio un amico mio. Io li ho visti tempo fa... con la formazione senza, dopo Cisco è venuto recentemente per il concerto. Ah, Cisco è da solo. Lui era, cioè, è stata una svolta. Loro sono partiti dalla musica irlandese e poi sono arrivati al cosiddetto combat folk. Esattamente. Sì. Voi non fate combat? No. Voi fate no. rock, assolutamente. Sì. Rock. Ci proviamo. Anche, eh. anche le sfumature di psichedelia. Ecco, quello mi fa molto piacere, perché tu hai citato, cioè hai parlato di cover band, hai parlato dei Rolling Stone, poi avremo una sorpresa finale per i Rolling. Okay. Cari amici dei Rolling, state attenti. Dovete stare attenti fino a sentire tutti fine. I pezzi dei Babiloni. Però... chiaramente fino al 24. Però la psichedelia entra di soppiato anche in questo disco. Come mai, Fabrizio? Perché l'amore psichedelico come me ce l'hai nel sangue, sì, musicalmente parlando. Sì. Perché Syd Barrett ha creato una via i Doors, anche se poi è stato buttato fuori per motivi diversi, non stava in piedi praticamente. però se non c'era lui non c'erano i Pink Floyd, esatto, che c'è poco da fare. E i Doors hanno proseguito una strada, anche se penso che l'album psichedelico sia per eccellenza qual è? Magical Mystery Tour dei Beatles. E non Sgt. Pepper, secondo te? No. Secondo me Magical Mystery Tour è qualcosa di fenomenale. Al di fuori di ogni, sì. di ogni aspettativa. Sì. Loro sono molto avanti. Sì, come sempre. Loro... come sempre. Anche se per qualcuno... qualcuno ha scritto, sì, la Bibbia del Rock e l'album Sgt. Pepper. Io amo particolarmente Tu sei un Rolling Stoniano. No, io sono un beatlesiano. Io sono un Rolling Stoniano, in parte, anche beatlesiano. Però c'è quell'album di contrapposizione fatto dai Rolling Stone nel stesso periodo. Loro Satanic Majesty, Satanic Majesty, dove c'era il famoso Caesar Rainbow. Un album che è stato criticatissimo, ma era un album interessante, deliziosamente interessante, perché aveva Brian Jones che cercava delle evoluzioni, dei suoni diversi. Perché erano amici dei Beatles. Chiaramente sì. Ricordiamo che il primo pezzo John Lennon gli ho donato praticamente. Invece di cantarlo Ringo Starr, Tommy Jagger gli ha detto. Esattamente. Bene, e tutti questi input, questi riferimenti che abbiamo citato, vanno anche in un'altra storia. Sì, assolutamente. Fanno parte sì. integro di questo nuovo disco. Certo. Anche se poi ti dirò in un pezzo che ascolteremo, più avanti, sentirai anche dei riferimenti non solo psichedelici, ma anche grunge. Quindi se hai cercato di superare la barricata, saltato la barricata. Esatto. Non sei arrivato al punk col famoso 77 di Talking Heads, però potevi tentarci. Magari nel prossimo. Vediamo. Nel prossimo, si sa mai. Benissimo, allora andiamo avanti. 22:31. Cosa dici, Fabrizio e Francesca? Un pezzo dal disco? Ma sì, dai, un pezzo dal disco. Ok, cosa abbiamo scelto adesso? Penso dal nuovo disco, mi pare. Sì, no? Penso di sì. Sì? Dov'è la scaletta? Abbiamo perso. Non l'abbiamo segnata noi. Dai, sì, la traccia numero 3. Treno vuoto. Esattamente. Treno vuoto. Yes. Perfetto, ok. Il mio pezzo preferito. Aspetta, è una tristezza. Rock Wave, l'onda del rock. Una cosa molto interessante, cari ascoltatori, voi non avete sentito, Fabrizio e Francesca e il sottoscritto stavamo discutendo sull'evoluzione del pezzo, un pezzo molto per complicato questo qua. È nato in una certa tonalità, poi Francesca ha alzato progressivamente, e alzando progressivamente non era facile. Poi c'è un po' di grunge e c'è soprattutto Hendrix si vede, si nota, si sente. È vero. E fa piacere sempre. Ah, certo. Fabrizio, come è nata questa costruzione che poi per Francesca è andata in determinata modo? Allora, partiamo dal presupposto che questo pezzo lo cantavo io. Ah, quindi lo cantavi in una per certa maniera. È una cosa in una maniera che sì. Cioè, questa è alla base. Lo cantavo da uomo. Da uomo, quindi è abbastanza basso. E lei è arrivata, abbiamo tenuto la stessa tonalità, però abbiamo cambiato il modo di approccio, chiaramente. Sì, dell'approccio. Era tenuta bassa all'inizio e poi dopo è cresciuta. Esatto. Ed è stata difficile crescere così tanto velocemente. E lì è stata lei, cioè è lei proprio che ha detto così. Perché da come la sentivo era un po' piatta, in realtà non era piatta, però pensata per un uomo, quando viene traslata sulla voce femminile c'è una differenza notevole. Una infatti, esatto. Adesso ti dico, il pezzo è nato psicadelico questo, non è nato grunge. Poi è stato in... quando abbiamo fatto le prove, la preproduzione, è stato lì che prendeva forma. E poi quando siamo andati a registrare in studio, che abbiamo registrato io, il batterista, e io, Marco e Riccardo, lì l'abbiamo detto, no, la facciamo così. E allora abbiamo cambiato il modo di suonarla e lei è arrivata e l'ha cantata. E l'ha cantata in questa maniera. È un, cioè, è un work in progress, praticamente l'avete cambiato in movimento. Sì, vabbè, sì. Ma come quasi tutti. Ma quasi tutti, quando siamo entrati in cabina. E quando entrate in cabina, come va? Diverso. In cabina. Quando siete pronti. Mettiamo il gettone. Quando eravate in sala di registrazione per registrare questo nuovo disco, entrate in cabina, era tutto. Come mai poi con questo pezzo, per esempio, avete cambiato totalmente? Così improvvisamente. Ma ti dirò, infatti, che noi comunque siamo andati là e abbiamo detto, ci troviamo a fare le prove normali, facciamo una preproduzione, poi andiamo in studio. Le prove sono state fatte in una maniera, sì, più o meno, no? Sì, lineare. Esatto, poi dopo quando siamo stati in studio, in tre, io il batterista, io Marco e Riccardo il bassista, cioè la base ritmica diciamo, siamo stati i primi ad andare là a registrare la base ritmica, diciamo che sono cambiate un po' di cose. E poi sai, quando tu suoni e registri e continui a registrare, ti vengono in mente delle idee, ti vengono in mente delle melodie nuove e quindi non fai altro che trasportarle e dire proviamo a far questo, proviamo a far quello. Così è nato il pezzo. Esatto. Così in questa maniera. Bene, salutiamo Gianluca Merlin che vi ha ospitato nella sua emittente qualche tempo. Ciao Gianluca. E il nostro direttore artistico Alberto Prisco che vi ha convocato qua stasera. Ciao Alberto. Bene, proseguiamo l'ascolto del progetto vostro, non, perché abbiamo due album da sentire. Esatto. Del vostro progetto, perché non è solamente l'altra storia news, è un progetto. È un progetto. Questo è importante. Un progetto che per adesso però siamo fermi. Ma intanto avete fatto quindi se dischi. Volete contattarci, guardate, noi siamo disponibili. Noi siamo ci disponibili trovate. Ci trovate su MySpace, ci trovate sul nostro sito, ci trovate su Facebook, ci trovate ovunque. Dopo dai l'indirizzo giusto però, eh? Sì, dopo lo diamo, sì. Indirizzo giusto. Bene. Se c'è qualche agenzia che... A proposito di indirizzo, se uno vuole avere il disco fisico vostro, come si fa? Ci deve contattare. Ah beh, no, aspetta, noi siamo su iTunes. Siamo su iTunes. Esatto, sia col disco vecchio che col disco nuovo. Quindi, se uno vuole, ci potete scaricare, o se preferite avere fisicamente il disco a casa perché vi piacciono le nostre foto, l'avete visto da qualche parte e volete tenervi la foto ricordo, ve lo firmiamo anche. Certo. E ve lo mandiamo a casa. No, basta contattarci ai nostri indirizzi, dopo li diamo in maniera dettagliata dal sito e da Facebook che è utilizzato da tutti, c'è modo di richiedere. Esatto. Cosa vedo chiedere rispetto al disco News, cioè il primo disco, che livello di registrazione diverso c'è stato? Allora, tieni presente che la differenza principale è stata che dal primo, cioè la prima volta che siamo andati in studio era proprio la prima volta che andavamo in studio. Perché non tutti magari, ma quattro. Era News al 100%. Era News al 100%, per cui non c'è stata anche una certa emozione. C'era l'emozione, c'era. Infatti, abbiamo perso tante ore a. Per cercare di capire. Sì, esatto. e il secondo invece siamo andati dentro e l'abbiamo fatto. Avete già le idee chiare? Esatto, con le idee chiare, quello che volevamo fare, i pezzi. Quindi la differenza tutto. È anche questa. Sì. E si sente? Si sente molto, si sente, certo. Si sente sì, molto. Sì. C'è più... E lo studio uguale, eh? Stesso studio. C'è quindi. Più forza... di propulsione, cioè c'è più qualità, non qualità nel c'era senso, anche due anni in più di concerti, c'è più esperienza. E i concerti, come sono i vostri concerti praticamente? Il live, cosa date nei live? I pezzi li fate come dal disco o li allargate come si usava negli anni 70 e non finivano mai? Sai che ci sono dei pezzi che noi allarghiamo alla Grateful Dead per dire anche sì li allarghiamo tipo l'isola o così sono sì detto, diventano Zeppelin, lunghissimi così, una serie di gorgheggi di però di no ci divertiamo poi dopo non so se gli altri si divertono, noi sì noi benissimo, 22:42, sentiamo un altro pezzo da disco. Che abbiamo scelto? Vi ricordate la scaletta? Fai un pezzo da disco. Ah, aspetta. No, da disco, cioè da disco. Sentire. Ah, facciamo un pezzo, ok. Il numero 6. Michele dice numero 6. Però io non so il titolo. Adesso lo sentiamo. Perdonateci. Lo sentiamo e poi ne discutiamo, ok? Ok. Qua 22:46, per questo preciso momento, tu parlavi, questo è un pezzo dedicato a tua figlia, vero? Esatto, Fabrizio. E che non era ancora nata. Era ancora nata. Scritto. Si chiama Daisy. Daisy, sta per desiderio. Esatto. E niente, l'ho scritto. A me interessava. L'ho scritto. Sì. Ho fatto un riff, ho sbagliato un riff. Hai sbagliato la nota del riff. Esatto, però mi è venuto questo riff. È giusto, non è sbagliato. Ti prendo proprio sullo stomaco, sì, è un bel colpo allo stomaco, sì, all'inizio. Esatto. È venuto questo pezzo carino, un po' estivo. E poi a Francesca parlavamo sempre al microfono spento, sei involata verso Kurt in Love, secondo me. Sì, sì, lei leggermente. Cosa dici, Francesca? Scusa. Non lo so, è la prima volta che mi viene mossa questa. Beh, non è mica un'accusa. No, infatti, somiglianza, no, ci mancherebbe, anzi, a me. Un'accusa nel senso una Cornelò piace tantissimo. Insomma, adesso. No, nel senso, a me. Musicalmente. Cioè, no, musicalmente. Anche se ha fatto delle cose un po' così, però i primi dischi erano interessanti. Vabbè, secondo me, Celebrity Skin è un disco bellissimo. E l'approccio che tu hai cantato in questo pezzo, forse il riff che ti ha fatto Fabrizio, ha un certo senso e tu lo cavalchi bene. Cavalco, cioè, ti racconto un aneddoto. Tu sai già dove voglio andare a parlare. Non me lo ricordo. Abbiamo troppi di aneddoti. Pre-produzione, ci troviamo. Io non ero preparatissima. L'abbiamo rifatto 8 volte. Perché c'è sì, il momento della scala. È vero. È vero. Io non ci riuscivo. Mi hanno tirato un sacco di brutte parole. Dopo 5 volte che l'abbiamo rifatta, cioè, mi guardano. No, adesso basta, 5 minuti di pausa e poi dopo la fai. Una cattiveria mai vista. Tutti contro di te. Quasi. Ma, cioè, sì, ma te dovevi sentire le parolacce. L'abbiamo presa sul ridere. I gesti che facevamo. L'abbiamo presa sul ridere. Sì. No, ma è stato molto bello anche in fase di registrazione, perché chi canta sta in uno stanzino, però vede cosa succede. E noi eravamo tutti in regia. Loro erano tutti in regia e mi facevano ridere perché io non riuscivo a però è stata fatta in qualche modo. Hai citato un musicista che suona qua? Ah sì, qui Paolo. C'è Paolo Varoli, che è quello che ha fatto la solo finale ed è il chitarrista di Paolo Belli e della Rai, quindi fa parte dell'orchestra di Paolo Belli. Esatto. Della Rai, praticamente, quindi... anzi, ci tengo a salutarlo. Ciao magari. Paolo. Quindi, come abbiamo detto prima, è una banda aperta la vostra, ha ospitato un sacco di gente al di là della formazione classica vostra. Suonato un po' di amici, musicisti. È bello che sia così, come lo spirito giusto per fare un disco. Ma è giusto, la musica unisce. A volte dei Beatles, il piccolo aiuto degli amici è un aiuto importante, l'amico che ti dà una mano, perché la musica unisce, hai detto una cosa fondamentale, la musica è la cosa più importante. Non ci sono bandiere, no, non esistono bandiere, musica è musica e basta. Visto che la musica è musica e basta, abbiamo tempo, molto tempo, ma ancora tempo adesso per fare un altro pezzo dal vivo. Che cosa? Stavolta facciamo una cover. Una cover di Alanis Morissette. Quella da 13 milioni di copie, quel disco che aveva fatto. Sì, quasi. Penso di sì. No, questa non è Jagged Little Pill. No, questa è dentro un acustico di MTV. Sì, che era molto bello. Che per me è eccezionale, ha un testo magnifico ed è anche un po' il mio inno, nel senso che dopo i periodi bui... ci sono i periodi più belli. Ma no, bisogna trovare la forza di affrontarli per renderli belli. Certo. Quindi... è un mantra. È un mantra. Adesso sentiamolo. Sentiamolo. Okay. That I would be good. Parto io. I got del rock. Allora, Fabrizio Bicio Bozzelli alla chitarra. Sono io, presente. Insomma, Francesca Tellini alla voce, che in questa rivisitazione dei Babiloni è un pezzo bellissimo di Alanis Morissette, da un album acustico. Di MTV, molto bello. MTV 1999. Esattamente, 1999. Sì. Sì. Lo so dire con certezza. Mm-hmm. Al 100%. Sì. Pezzo molto bello, hai dato una ottima interpretazione. Grazie. Generale. Ci tengo particolarmente a questo. Ami particolarmente questa musicista. Sì, Alanis Morissette mi piace tantissimo. Questo poi, vabbè, poi ha cambiato il suo percorso artistico. Sì, infatti mi piacevano più i primi album. Al di là del grandissimo successo del primo. Beh, insomma, ha messo la testa a posto e ha trovato un'altra atmosfera. Sì, ecco. Ha trovato altre cose da dire. Beh, una grande artista. Come mai l'idea di questa cover di Alanis Morissette? Ma guarda, noi del Basso Mantovano usciamo da un periodo molto difficile, perché da noi c'è stato il terremoto, certo. E purtroppo ha toccato tutti. In certi momenti non tutto il male viene per nuocere, cioè purtroppo è così. Si è creata, io non so se è stata palpabile anche da te o nelle zone in cui sì, certo. Certo. Comunque un senso di solidarietà altissimo. Pertanto magari riuscivi a dimenticarti per 15 minuti, mezz'ora, il terremoto, perché parli con il vicino che non vedi da degli anni e poi magari ti abita lì attaccato. Certo, è vero questo. E poi puoi anche cantare col vicino che non vedi, cioè, da tanto tempo. Ma Dio. Beh, insomma, sì, non ho vicini. Comunque c'è un senso di solidarietà nuova, un senso di positività nuova. E anche un senso di umanità. Un senso di umanità ritrovato. Infatti questo è... Questo secondo me è davvero il bello e il brutto della cosa. Il bello e il brutto, va bene, però guardiamo il bello. Cioè, guardiamo questo, è che ci accorgiamo è sempre bello, che io sia sempre buona. Che io sia sempre buona, cioè il testo dice. Sì, questo dice questo, esattamente. È così. Bene, bene. Le cover come le inserite nei vostri live, praticamente, se ci sono delle cover? Beh, cerchiamo di adattare la voce di Francesca. Esatto, lei dice secondo me questo può andare bene, poi dopo noi diciamo no, fa schifo. Oppure questa oppure te la imponiamo. Esatto, oppure gli imponiamo dei pezzi tipo dei Pretender. Beh, è un pezzo della Madonna quello, eh. Infatti riesco a cantarlo benissimo, non mi impappino mai. Beh, perché sbagli te, non per colpa nostra. No, infatti è un problema mio. Middle of the Road. Molto interessante anche quello. Scegliete sempre le cose molto semplici per Francesca. Beh, non è difficile. No, Chris Hine non è un fenomeno. No. È eccezionale. Beh, secondo me la cover più bella che abbiamo fatto è quella delle. Com'è che si secondo chiama? Secondo me quella era quella di Blondie. Di Blondie, esatto. Sì. Che però non è Hanging di Blondie, on the Telephone, ma è di. Non me lo ricordo. Non so, però è stato un momento molto divertente, perché ho un panchettino. No, un punk, è proprio un pezzo punk. Comunque, vedi la gente che si diverte, è davvero carino. È vero, è bello. E non mi ricordo il titolo, però. Hanging on the Telephone. Hanging on the Telephone. E il pezzo è un pezzo punk del 76, scritto da un americano che non mi ricordo chi è. Vabbè, noi abbiamo fatto la versione però di Blondie. Comunque, anyway. Bene, visto che ci siamo sulle 22:58, adesso c'è solo il giochino, sulle 23, quasi manca un minuto, e c'è il giochino ai famosi 5 dischi da portare su un'isola deserta. Cielo. C'è una regola ferrea in questo programma, che continua da tanti anni: non si può copiare. Quindi ognuno deve scegliere un proprio disco a sé stante. Ma secondo me. Comincia a te, Francesca, e dopo. Adesso mi concentro. Ecco, vai, Francesca. Jagged Little Pill di Alanis Morissette. Okay, benissimo. Il primo. Primo, poi? Bellissimo. Non c'è non un. Ti stancherai, mi sembra. No, mai. Celebrity Skin delle Hole. Ah, l'hai nominato prima. Sì. È un altro pezzo, è un altro album formativo. Vado sul soul, nel senso che io amo particolarmente il soul, ma ti faccio una scaletta rock perché per il momento mi viene fuori così. The Miseducation of Lauryn Hill. E come mai Lauryn Hill? Perché oltre a essere una musicista soul, non è propriamente una musicista soul. Qualche volta ha fatto dell'hip hop, ha fatto di tutto. Ha fatto del jazz, fa un po' di tutto. Sì, sì, secondo me grandissima voce. Penso di essermi appassionata a lei dopo averla sentita cantare un pezzo con Aretha Franklin, A Rose is Still a Rose. E poco dopo, poco prima, insomma, era uscito questo The Miss Education, tra l'altro inserito tra i 100 album più belli di Rolling Stones. Sì, The Rolling Stones, ed è davvero bello, ma proprio perché lei ha una timbrica particolarissima e viaggia dal rock all'hip hop, al soul, al jazz, ed è completo. Quindi ti ami particolarmente questo disco. Mi piace tantissimo. Poi? Torno sul rock, ne parlavamo oggi, Foo Fighters, Skins and Bones. Foo Fighters, c'è sempre un collegamento con Nirvana. Moderna. Sono molto, sono giovane. C'è sempre un collegamento con Nirvana, abbiamo citato le Hall, poi Foo Fighters, c'è sempre un piccolo input con Nirvana. Con Kurt Cobain. D'altronde dell'ultimo ventennio sono loro. Dal famoso album mitico che poi ha praticamente aperto le strade a tutti. Ne inserisco un altro soul. Vai. Ma non è un album, in realtà è un DVD. Ma perché l'ho visto ultimamente, è un DVD che ti lascia come cantante, ti lascia tantissimo. Ma non c'è un DVD sull'isola deserta? Va bene, io nella mia isola deserta, oltre ad avere il lettore CD, ho anche il DVD che mi legge Live at Last di Stevie Wonder. Dove lì impari perché caspita, cioè se non sa cantare Stevie Wonder già ha un pool di coristi, tra cui anche la figlia Isha, non ce n'è uno che... Sì, al di là, questo, tu hai detto una cosa giusta, al di là del pool di coristi lui è Stevie Wonder. Lui è Stevie Wonder, ci mancherebbe, però vedendo concerti di personaggi di certo calibro, certo. Impari tantissimo, perché si osserva. Sì. Ne ho lasciati fuori un sacco. Non importa. Ho lasciato fuori Janis Joplin, Rita. Hai detto 5 e basta. Sì. Come mai hai lasciato fuori Janis Joplin? Che Janis Joplin, secondo me, cioè, ha un altro input. Ho voluto Stevie Wonder. Ma era per fare un po' rock. Ma ritornando a Janis Joplin, Janis Joplin è un input che forse ti si addice. Ma io canto Janis Joplin. Dopo canti Mercedes a cappella, subito un pezzo. A cappella, immediatamente un pezzo di Janis Joplin. Dai. Aspetta un attimo che mi alzo. Ti alzi, vai. Non vorrei mai. Ciao a tutti, sono più in alto. Scusate. Bicio, puoi almeno battere le mani su questo pezzo, per cortesia. Devo appoggiare la chitarra. Appoggia la chitarra. È tutto dal vivo. Facciamo una strofa. Una strofa, vai. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make a man. Work out of my lifetime. No help from my friend. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Vedi, a Rockaway succedono queste cose, chiaramente. Solo a Rockaway succedono queste cose. Non era mica previsto in scaletta questa roba. Assolutamente, una roba che ho inventato io in questo momento. Io e Francesca, chiaramente. Yes. Soprattutto lei, io sono dato lì. Tocca a te, Bicio, vai. Il White Album dei Beatles. Ecco, ci fermiamo un momento, che Bicio mi ha detto che lui fa le cover dei Beatles da Sgt. Pepper in su. E non certo. Da Sgt. Pepper. No, lo faccio anche le altre. Però il tuo sei più vicino a quelle tematiche. Esatto. E White Album perché? E dobbiamo perché sapere il perché. Perché qualcuno dice la Bibbia del rock dei Beatles, non Sgt. Pepper. Perché White Album c'è tutto. Il White Album racchiude il passato e il futuro dei Beatles. Sì, chiaramente c'è tutto, è il doppio, c'è tutto. C'è anche il disfacelo della band. Sì, esatto. Purtroppo. C'è il fatto che il White Album è il White Album. E basta. Esatto. Andatevelo a ascoltare chi non l'ha mai ascoltato, perché pochi, secondo me, pochi. Ma no, ce ne sono ancora. Sì. Beh, vai. Spero proprio di sì. Speriamo di no, che ci siano pochissimi che non lo sanno. Un altro album è Born to Run di Springsteen. Ecco, un altro disco epocale. Born to Run di Springsteen. Non sarà perché ci sarà il grande sax di Clarence Clemons, oppure perché il boss con Born to Run ha esploso, tu hai i maggiori fuochi d'artificio che potevano esistere. Anche le storie raccontate, anche le storie, non so, tante cose, anche le canzoni sono veramente qualcosa di epico. C'è Django Land. Io sai cosa amo del boss? The River. The River è un disco che è bellissimo, non è stato apprezzatissimo, però lo amo particolarmente. A me piace molto, però io Born to Run per me è qualcosa di speciale. Di speciale. Cioè, anche perché ero piccolo, lo ascoltavo da poi, quindi resta, insomma. Rimane. Esatto. Qualche concerto del boss l'hai visto? Se ti dico che ne ho visti una quindicina. Bene, gli ultimi li hai visti? Ho visto l'ultima volta a Monaco 3 anni fa, Monaco di Baviera. Come ti è sembrato? In gran forma. Adesso è venuto a vedere in Italia, era senza Clemons, però ha fatto 4 ore a Firenze, 3 ore e mezzo a Milano. 3 ore e 40 a Milano. A Milano, quindi non era, nonostante... Ha fatto 4 ore a Madrid, 4 ore e 5 a Madrid la settimana scorsa. Vedi, il boss è sempre il boss. Sì, è lui. Vai, poi, Bicio. Poi saltano Swing Dire Straits. Ah, come mai gli amici dei anche di Mark Knopfler and Company? Perché è piccolo. Perché eri piccolo all'epoca, sentivi Dire Straits? Sì, Down the Waterline o Saltano Swing o comunque In the Gallery. È bello che in Italia è diventato famoso perché Pippo Baudo li ha presentati a Sanremo con Tanova Love. Nello vlog, però nell'80. È nell'80, sì. Ma già ero vecchio, sì. Io. Cioè. Ma il successo italiano è esploso. Sì, con esploso vlog. Lì, sì. Esattamente. È grande, grande. Mark Knopfler è un chitarrista un po' particolare. Sembra che abbia una dinamica molto semplice, ma non è assolutamente vero. A me piace tanto. Poi ho The Piper of the Gate. Adesso andiamo sulle cose che piacciono a noi di una certa età. Perché questo Barrett omaggio praticamente? Non lo so. Mi ha colpito anche lì. Cioè, nasce tutto da. È il primo disco dei Pink. Questo. Sì. Assolutamente il primo. Quando c'è veramente Syd Barrett. Veramente. C'è lui. C'è lui, esattamente. È lui che fa. Che fa tutto praticamente. È qualcosa di speciale. Andarsi a leggere anche come è stato fatto quell'album lì, come è stato creato, è qualcosa di eccezionale. Perché era uno che faceva disegni. Era un artista. Era un artista a 360 gradi. Bello e maledetto, solite cose. Come gli artisti, esatto. Belli e maledetti. È poco da fare. E poi è rovinato. Tu, Bicio, sei bello e maledetto. Grazie. Però è ancora vivo lui. Certo, mi deve portare a casa. Quindi i Pink di quel momento, sì. No? I primi anni 60, fine anni 60, 65, 67. 67, quindi l'anno cruciale, quando è nata la Flower Power, quando sono nati lì, Sgt. Pepper il primo giugno ha dato il là. Esattamente. E loro, i Pink Floyd, sono usciti poco dopo. Sì. Famosi studi. È uscito anche Hendrix con gli Experience, sono usciti diversi. Guarda personaggi. Quanti dischi incredibili sono usciti. Quell'anno lì sono nato io. E sei intanto te, vedi Cass. Poi ancora Fabrizio? Poi quanti ne ho detti? Ne hai detti 4, mi pare. 4? Non me li ricordo più. Vabbè, non importa. Puoi aggiungere un altro, Non lo so. Però sai, ne direi italiano ne avete citato nessuno. Italiano te lo dico io allora adesso. Vai. Mi piacciono le Sbarbine degli Schianto. Gli Schianto sei citato. Come mai? Beh, la farei, è come cover quel. Perché anche loro li ho visti da piccolo la prima volta, e poi dopo ti restano. è un gruppo, cioè, non so se la bandiera l'ha presa Elio le storie tese. Però, sì, l'hanno presa loro, però è un'altra cosa. Però anche loro, musicisti sono bravissimi. Schiantos, come producisti straordinari, sono straordinari. Quelli di Elio sono straordinari. Erano i Zampiani d'Italia. Erano punk. Esattamente. Beh, mi fai fare piacere le Sbarbine un secondo? Non ci posso fare niente. Mi piacciono le Sbarbine. Sono diventato deficiente. Yeah. Perfetto, anche questo assolutamente non previsto nella scaletta. Benissimo, adesso andiamo per farvi riposare un secondo. Un pezzo da disco. Che traccia abbiamo scelto, Michele? La numero 5. Ok, la sentiamo allora. Come va? Seguimi nel tuo nuovo mondo, dove tutto è luce, dove si sta. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sempre Rock Wave con Michele Tosoni in regia. Fabrizio, era un pezzo piuttosto clash o post clash, insomma, era pacchettaro. Sì, pezzo clash moderno. Clash moderno. Il titolo che non abbiamo detto, Fabrizio. Seguimi. Seguimi. E Francesca poi... Ah, questo l'abbiamo scritto... Come avete a quattro mani io e Riccardo. Sì, abbiamo cambiato qualcosa nel testo, è diventato... Cos'era? Troppo tenero? Era un... Ma perché è stato riscritto? Era troppo tenerone, perché era forse un testo che non mi piaceva. E allora ho detto, Riccardo, cosa parliamo qua? Riccardo fa, ci penso io. Ora mi ha mandato tramite mail, mi ha mandato quattro frasi. Ok, questo qui va bene. L'avete modificato. L'abbiamo modificato. Ma sì, possiamo dire che cosa... Sì, lo puoi dire tranquillo. Era riferito... Era appena uscito lo scandalo Rubygate. Ah, esatto. Quindi, insomma, cioè, l'idea parte da quello. Sì. Esatto, si rifà a una certa situazione, a un certo mondo. Ho capito. Esatto. E tu la cavalchi in senso... cattivo nel senso positivo del termine, la voce, una voce forte, potente, acida, come tu hai detto a microfono spento. È la prima volta che mi sento un po' la prosa più di una volta, cuffie, ma cioè è la prima volta che ascolti l'album. No ce l'ho anche nell'MP3, cioè, giusto per ascoltarmelo ogni tanto. Però no, l'ho sentito particolarmente acido, forse No, bello. Sarà che sono in questo mood sereno. Beh, è un gruppo sereno questo. Un gruppo sereno, sì. Siamo sereni. Battuta. Siamo sereni. Siamo sereni. Ma sì, facciamo musica. Stai sciallo. Facciamo sciallo. Sciallo. Quindi allora, seguimi. Tu hai detto, Fabrizio, che è stata creata, cioè il testo aveva un certo andamento, poi è stata modificata e musicalmente è nato proprio così? Sì, è nato così e non volevo metterla nell'album. Volevo mettere un altro pezzo. E come mai poi ha deciso il cambiamento? Perché il batterista fa è bellissima. Quindi il batterista ha dato l'ok, ha influenzato tutti. Ha dato l'ok, bisogna andare. Scusa, prego. Una volta che non gli si dice Alfa Schif, che questo è in dialetto reggiano, perché di solito le battute di questo tipo sono di Riccardo e di Marco. Quindi una volta che ci viene promosso direttamente, andiamo via. Esattamente. Sì, abbiamo detto questo. Musicalmente un pezzo ben sostenuto. E l'andamento del disco, chiaramente abbiamo parlato prima, microfono spento, da molte quadri, da molte luci diverse. Certo, c'è un'altra storia anche per quello. Sì. Ci sono dei riferimenti, ci sono dei generi anche toccati, cioè abbiamo toccato dei generi anche diversi che nel primo album era difficile. Erano toccati, però era difficile da allargare, forse da sì, svolgere. Abbiamo fatto un album rock. Avete fatto un album diverso. Album rock. Totalmente autoprodotto anche questo. Esatto, sì. Con un approccio diverso, come tu hai detto giustamente. Esattamente. Perché era la seconda volta, quindi eravate già abituati a farlo. È sempre bello. È sempre bello, sì. Suonare è sempre bello in ogni caso. E dal vivo come l'ho fatto un pezzo simile, Francesca? Uguale, questo è uguale. Questo è uguale, soltanto che se adesso hanno sentito i cori non li facciamo perché ci vergogniamo. Ecco perché ogni volta io mi fermo sempre ai cori, esatto. Perché per me i cori non ci sono. No, dal vivo non li facciamo. Capisco, i cori non li vogliono fare. Non vogliono seguirti. No. Ma fate i cori nel live. Sì, nel live, però questo pezzo no. Ho la fortuna di avere il bicio come ci mettiamo... seconda voce. Esatto. Il bicio fa la seconda voce. Sì. Cioè, sì, era prima. Nato come pezzo tuo questo qua? Sì, l'avevo già scritto per il primo album. E poi non volevo metterlo neanche nel secondo, pensa te. E poi dopo invece... Poi hai cambiato tutto quanto. Grazie al batterista. Grazie al batterista. Invece poi mi sono... Il batterista che funzione ha nel vostro disco? Il batterista sembra una funzione importante, ma come trend, guarda, come ti dirò spinta. Che qui... Citiamo il nome del batterista un'altra volta. Marco Salvemini, detto Paccia. Esatto. We love Paccia. Salutiamo. Ciao Marco. Qui secondo me... regna l'anarchia, io porto i pezzi e ognuno si decide, esatto, e poi salta fuori comunque qualcosa di carino. Ma l'anarchia serve qualche volta musicalmente, serve. Dire sì, l'anarchia c'è, però in linea di massima sappiamo già dove vuole andare a parare ognuno di noi. Ma certo, chiaro che siamo insomma dei musicisti magari scarsi, però insomma sappiamo ma perché magari scarsi? Siete dei musicisti e basta. Aspetta un attimo, no, perché c'è della gente che lo fa di mestiere, esatto. Magari non però, offendiamoli, però è giusto, dai, ogni tanto dare dello scarsone a qualcuno. Certo. Ricca, sei uno scarsone, esatto, non te lo diciamo mai ma lo pensiamo. Bene, non so quando tornerete a casa. Benissimo, 23:16, un altro pezzo live, dai, che cosa? Sopra un cristallo blu. Ok, benissimo. Cosa ho sentito questo pezzo, sì, adesso te, dimmi, lo dico. L'inizio sembrava una ballata alla Easy Rider, assolutamente. E poi, l'andamento alla Goose Goo, il famoso disco da Easy Rider, un pezzo di Easy Rider. E poi lei cantava con una voce molto alla Chris Leak di Jefferson Plains. Jefferson. E quindi hai una voce molto, molto passata di blues, Francesca, in questo momento. Sì. Secondo me sì. Ma non so, hai badato che il pezzo cambiava ogni... Sì, cambiava, sì. Allora, esattamente, l'hai cambiato completamente. Infatti. Sì. Ma perché poi quando tu fai... Ma l'inizio era in un certo, esatto, tonalità e poi l'hai cambiato totalmente. Perché poi viene un'ispirazione, perché si forma un qualcosa, io guardo la Francesca... Certo. E mi spavento. No, no, assolutamente. Ma che bruttissima persona. No. C'è gente che pagherebbe. No, però questo si crea qualcosa. Sì, beh, figli. Quindi... Ma è positivo, secondo me. Sì, sì. Anche secondo me. Certo, anch'io guardo il bicio e non capisco che cosa voglio fare, perché a volte... Perché ha cominciato in una maniera e poi ti ha confuso praticamente. No. È che... Cioè, i pezzi hanno tutti una dinamica diversa tra loro, e se li vuoi rendere al meglio comunque devi dare una spinta diversa tu in una strofa piuttosto che nell'altra, in un crescendo. Ma io ripeto, questo pezzo che tu hai appena eseguito, sì, con Biccio alla chitarra, mm-hmm, Biccio ha cominciato con un andamento alla Easy Ride, c'è poco, sì, da fare, cioè, era una ballad, era una ballad, assolutamente, e una poi ballad. Invece e è stato è esploso, si è cambiato totalmente ed è esploso dopo il pezzo rap. Dopo, diciamolo, facciamo anche un rap. Bene. A metà c'è. Ma rap, sì, dai, sono, sto scherzando. No. Certo. E beh, questo fa parte del progetto. Sì. Noi abbiamo citato un sacco di volte il progetto, ma è giusto che già citare il progetto. Esatto. I Babilonia vanno avanti anche per quello, secondo me. Ah, speriamo. Bisogna. Bisogna, il progetto deve continuare, assolutamente. Dobbiamo... dobbiamo cercare di trovare sempre dei nuovi, di nuovi stimoli. Stimoli. Adesso vediamo. Già stasera è uno stimolo suonare. Suonare dal vivo in acustico. Biccio, scriviamo qualcosa intanto che torniamo a casa. Non si sa mai. C'è gente che scrive. Se c'è l'ispirazione giusta. Certo, c'è gente che scrive, ma chiaramente non guidando, però pensando qualcosa, poi si ferma o scrive. Posso dire una sciocchezza? No. Dimmi. No, non vuoi dire. No. Dedichiamo una canzone all'autogrill. Perché no? Bene, 23-21, 23-22, sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia c'è, Michele, adesso? Quello nuovo o quello vecchio? Cosa hai detto? La scaletta? C'è scritto. Ah, ok. Va bene, ok. Numero 3, allora, ok. We'll be right back. l'onda del rock. Siamo sempre a Rockaway, stiamo piacevolmente conversando con Babilonia, stiamo parlando di questo pezzo tratto da News, dal primo album, Fabrizio, che tu hai inventato, che hai costruito di getto, un pezzo molto avvolgente, una chitarra, un'armonia, proprio un'armonia, c'è l'armonia. Sì, abbiamo messo tanti strumenti anche. È un pezzo, cioè, piuttosto complesso. Stavo ascoltando Karma Police dei Radiohead e ho provato a fare gli accordi, mi è venuta questa melodia e così è venuta fuori. Sì. Qua suona ancora il tastierista di Modena City Ramblers. Sì, qui suona Leonardo Sgavetti, che è fratello di Riccardo Sgavetti. Esattamente. Quindi tocchiamoci che ha un naso, Bicio, se no non mi sposo. E che ha un certo andamento al pezzo, questo sì. Che le tastiere un certo c'è Lemmon, esatto, c'è Lemmon, ci sono i violini, insomma. Ma tu dicevi che non l'avevi scritto proprio così? No, era un pezzo country e tra l'altro completamente diverso, era proprio un pezzo country folkeggiante, cioè l'avevo scritto penso 15 anni fa. Ma le parole erano quelle e poi ascoltando il pezzo di Karma Police l'ho trasformato, la melodia era uguale e con altre note. Esattamente. Sì. E una cosa volevo chiederti, nel disco nuovo, questo è un'altra storia, i pezzi sono tutti nuovi o sono datati? No, ci sono anche dei pezzi che avevo già scritto. Ho detto Seguimi, ad esempio, era un pezzo che volevo mettere nel primo, che per motivi diversi non è andato dentro. Non volevo neanche metterlo nel secondo, sei stato spinto da metterlo dentro. Poi penso che di pezzi nuovi non siano tantissimi del secondo, perché addirittura noi nel primo album volevamo fare volevamo intitolarlo Greatest Hits e metterci 20 pezzi. Avevi tanti sì, pezzi esatto, pronti, materiale pronto, e volevamo fare un Greatest Hits già col primo, era originale. Ma da quanti anni costruivi i pezzi prima di News praticamente? Quanto tempo è al di là di tutti i tuoi progetti da cover band? Non lo so. Non ho idea. Mi è sempre piaciuto scrivere, però poi dopo tante volte ho cestinato. Ah, okay. E mi sono anche dimenticato. Quindi... Perché un ragazzo che è venuto a parlare ieri sera aveva scritto 230 pezzi. È un fenomeno. Però chiaramente non li aveva messi certo. Però aveva, cioè, scriveva in continuazione. Sì, sì, sì. Può capitare. Ah, sì, sì. Io ci sono i pezzi che ho scritto. Tante volte quando ne scrivo uno, perché ne scrivo 4-5 di seguito. E poi cosa... dopo mi fermo per 3 mesi. E poi una cosa positiva che ha sentenziato Bicio a microfono spento, che lui scrive di getto, cioè immediatamente, non ci sono ripresentazioni. Esatto, difficilmente fai un errore, va proprio avanti così. Così, sì. senza nessuna fermata. Esatto. Neppure noi ci fermiamo, sono 23:29, adesso suoniamo ancora. Che cosa, Francesca e Fabrizio, in arte Bicio? Facciamo in arte. Facciamo una cover dei Velvet Underground. Cover di Velvet. Nico. Devo alzarmi in piedi quando si parla di Nico. L'altro giorno, ho ricomprato il disco Hand di Nico. Disco meraviglioso. Disco post, molto post. Sai che è in tournée Nico? No, dico, se n'è andata da un po' di tempo. Oh, io no. Te l'ho già detto un'altra volta. È stata una tournée, cioè Nico è morto da un po' di anni. Ma come da un po' di anni? Sì. Ma è impossibile. No, te lo dico io. È morto da un po' di tempo Nico. Ma no. C'è stata una tournée, mi pare. È stata una tournée tra Mike Oldfield. Ma è venuta Oldfield. A Milano? No. Lei ha fatto? No, è morta da un po' di tempo. Davvero? Sì, certamente. Morta in Ibiza. Googlate Nico e cercate su Wikipedia. Ma dai, me lo sono sognato. Ma no, io ne ero convinta di questa cosa. Però. Io no. Vabbè. È morta a Ibiza lei un po' di tempo fa. Tanti anni Ibiza. Fa. Proprio. Sì, parecchi anni fa. Ha fatto delle cose meravigliose. Era la musa di Velvet. Era la musa. Tu hai citato Jackson Brown. È vero. Anche lei. Sì, era la musa di Jackson Brown. Perché? Perché suo papà viveva in Germania. Suo papà era un generale. Americano che viveva in Germania, e Nico è stata conosciuta da Jackson Brown là in Germania. Era una modella, una grandissima modella. Ha fatto un po' di tutto ed era la musa di Andy Warhol. È stata la musa per cui John Cale e lui hanno litigato praticamente. Esatto. Si dice, ma no, anche se non è vero, sono leggende metropolitane. Sentiamo Nico e Francesca e Fabrizio. She comes. your step. She's going to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She builds you up just to put you down. What a clown. 'Cause everybody knows she's a femme fatale. She does to please. She's just a little tease. But see the way she walks, and hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37. Look, she's going to smile to make you flown. What a clown. Little boss, she's from the street. Before you start, you're ready beat. She's gonna play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows. She's a femme fatale. The things she does to please. She's a femme fatale. She's just a little tease. She's a femme fatale. See the way that she walks, and you hear the way that she talks. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Non c'era il coretto di John Cale e Lou Reed, ma c'era il coretto di Fabrizio. L'ho fatto, ho fatto il coro. Sì, ti ho sentito. Fatto bene. Ho apprezzato. Era stonato, era tonato. No, era luridiano. Molto, molto. Beh, un pezzo simbolo, un pezzo meraviglioso dall'album famosissimo dei Velvet. Incredibile disco con la banana, con la banana disegnato da Andy Warhol. Andy Warhol, Venus in Force, il metro, il metro che ha portato ai Velvet. Che pezzi c'erano lì? Sono dei pezzi, li stavo elencando, li stavo sovracitando. Incredibili che hanno fatto la storia della musica. Loro erano della East Coast, però hanno, anche se era un po' della East Coast, quindi la costa con meno solare rispetto alla West Coast, hanno illuminato il mondo del rock da sempre. Vedi, incredibile. Cosa pensi di Lou Reed e Metallica, Bicio? Sai che non ho ascoltato niente, ho saputo questa novità, ho detto niente. È uscito da un po' di mesi, ha avuto un successo. Sai, non ha avuto grande successo perché i fan di Metallica non erano abituati alla voce di Lou Reed. E i fan di Lou Reed non erano abituati alla voce dei Metallica. No, soprattutto la musica. La musica. Però è stato un esperimento, sai. Ma andrò a trovarmi qualcosa. Beh, ho visto in un com'è? Beh, il disco è un po' strano, direi. Il pezzo più bello dura 17 minuti. Oh, grande. Però l'ho trovato in un negozio, quei dischi di Padova, l'ho trovato subito in offerta a 5,99€. Quindi proprio. Quindi, subito? Proprio in svendita. Probabilmente non ha avuto l'impatto. Cioè, che, anche se la critica ne ha giudicato abbastanza. Vedrai che fra 40 anni sarà. Sì, però. Rivalutato. Lo porteranno sullo Sputnik. Tu hai citato un disco straordinariamente distruttivo Rock and Roll Animal di Lou Reed, quello è strabello. Se qualcuno dice un capolavoro assoluto, qualcuno dice inascoltabile. E Lou Reed, o si ama o si odia, c'è poco da fare. Può essere, non so. Non ci sono mezzi molto termini. Anche lui è stato uno che ho visto qualche volta. Hai visto ma cosa ti è sembrato quando hai visto il concerto? Io l'ho sempre visto con la luna buona. E sei stato fortunato, sì. Allora. Perché so che lui ha le lune. Esattamente. E come Van Morrison? Ho visto Van Morrison due volte, una volta con la luna rovescia. Quando la luna rovescia, suona 30 minuti. Quando la luna 50 minuti. Ecco, 50 minuti. E massimo, a casa e tutti. Via. Però quando la luna buona suona più, sì. Di più. E poi ha suonato tutta sera il pianoforte e il sax Van Morrison. Ah, incredibile. Tu hai visto anche i ZZ Top recentemente? Sì. Adesso mi dici come li hai visti, se sono ancora vivi e vegeti oppure... Sono giovani in forma e spaccano tutto. grandi musicisti in America sono conosciutissimi e amatissimi, in Europa un po' meno, in Italia un po' meno. Cosa dici? Dice. Non so, io ho cominciato ad ascoltarli anche loro da piccolo, con l'album Fandango. Eliminator. Fandango è arrivato dopo. È arrivato dopo, sì, esatto. Io amo Eliminator poi Fandango. Anche a me piace molto. Eliminator è stato l'album che ho comprato e poi dopo, insomma, sono diventato ne hanno fatti tanti altri. Sì. No, non un fan, comunque. Però li segui, insomma, sì, esatto. Quando puoi. Bene, te non hai visto qualche concerto, Francesca, rispetto ai tantissimi visti da Bicio? Ma cioè, il Bicio è un'enciclopedia, non mi metto neanche, no, assolutamente. Stavamo parlando, no. C'è stato in un viaggio che stavamo facendo, penso, per andare a vedere qualche forse andavamo a suonare così, io e il bassista Riccardo abbiamo fatto il conto quello dei concerti dei 300, no, cioè, dei 100 dei 100 strumenti a corda, è anche uno che va a vedere concerti che lui dappertutto, no? Anzi siamo andati diversi concerti insieme. E allora abbiamo fatto il conto e erano tanti. Posso farti una domanda, sì, assolutamente cattiva? Il migliore che hai visto in assoluto, secondo te? Quello che ti è rimasto dentro, che ancora hai dentro, fra i tantissimi che hai visto? Non lo so. Paul. Hai visto Paul McCartney? Sì. A Bologna recentemente. 3 ore e 33 pezzi, quasi, di scaletta. Come ha fatto a 70 anni fare 33 pezzi? Perché ce l'hanno dentro, cose che adesso non succedono. Cose che non succedono. Parlavamo all'inizio di trasmissione, cari ascoltatori, che adesso non c'è quel quel modo di interpretare la musica. Ho fatto vedere anche i Doors. Ho visto i Doors senza Morrison. Chiaramente. Però spaccano. Manzarek spacca ancora. Spaccano. Ma i Krieger, cioè, sono lì che sembrano le mummie sul palco eppure ti investono di questa cosa che questa si luce, chiama musica, sì, che si chiama musica. E tu sei lì con la M maiuscola. Sì. E sono un altro pianeta, probabilmente. Non c'è paragone, vero? Io ho visto l'anno scorso Graham Nash e David Crosby. Erano loro due. È un altro pianeta. È vero. È un altro pianeta. Anche, soprattutto gli impasti vocali sono un altro pianeta. E qua capisci che cos'era il West Coast, che cos'erano i Birds, che cos'erano i Hollies, che cos'erano quei gruppi, Crosby, Stills, Nash e Young. Esatto. Che cos'erano? Come potevano arrivare con questo vocali? Pensa che ho visto due volte Tom Petty in The Breakers. Un altro mito. Ho visto assieme a Roger McGuinn, chiaramente, dei Birds. Cosa dici? E assieme a Bob Dylan. Cioè, Modena 86, penso. Una copiata incredibile. Tre straordinari musicisti. Il peggiore, cioè per dire, il peggiore Dylan, no? È il peggiore. Che no, il peggiore Dylan, no. Perché, cioè, sì. Cioè, perché dici Dylan? Ma Dylan non è Dylan un musicista. Dylan è fenomenale, è l'artista. Sì, esatto, è l'artista. Non è un musicista vero proprio. Sì, però Tom Petty in The Breakers... Incredibile. E vengono in Italia fra poco. A Lucca. Sì, esatto. Ho letto. Ma cosa c'ha Tom Petty? Io amo Down the Torpedo, è un disco che l'ho sentito milioni di volte. Ecco, lo sapevo io, l'ho fatto apposta. Vediamo se mi fa qualcosa di Down the Torpedo. Sembra Elvis Costello quando fai. Chiudono i pezzi. È un jukebox. È un jukebox. Disponibile per cresime, battesime e bar mitzvah. Jack Refugee, no, non sì, c'è Jack Refugee. Esattamente. Vabbè, bello, no, bello. Comunque, bello. Tom Petty è uno che fa parte della storia, anche lui, avendo suonato con Harrison o con con Jeff Lynne. Esatto, bravo. C'è gente grandissima. E però vedi, Tom Petty deriva da Ringo Starr, anche Ringo Starr. Esatto, anche Ringo Starr. Hanno fatto un pezzo bellissimo quando avevamo mollato gli Heartbreakers, sì, hanno fatto I'm Free. Sì, I'm Free, sembra, sì, giusto? Certo, sì, mi pare sì. Però dobbiamo sottolineare che Tom Petty deriva dai Byrds, erano i Byrds il loro punto di riferimento, sì, e Byrds sono David Crosby, esatto. Quindi siamo sempre lì. Sì, è vero. E noi siamo qui in Babilonia. Infatti. Yes. Però siamo arrivati qua, dai. No, siamo arrivati qua, esattamente. 23:41, adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Michele, che traccia ci abbiamo ancora? Numero 9 dal disco, quello... da quello nuovo, dal numero, la traccia numero 9, la traccia numero 9 è quella lunga, esatto. Adesso la sentiamo in parte e poi vediamo da sfumare, oh, la sfumiamo, ok, sfumiamo. Rock Wave, l'onda del rock. stiamo avvicinando alla conclusione, però non abbiamo ancora finito, ci saranno ancora dei fuochi d'artificio prima della fine. Assolutamente. Servono, sempre. Citiamo un momento questo pezzo, un pezzo molto forte, molto ben fatto, molto psichedelico, molto barrettiano in alcuni momenti, poi c'era un po' Who, secondo me. C'era Hendrix, c'era Francesca che dava una voce potenta, esatto. Eccetera. Molto Woodstock. Molto Woodstock, esattamente. Dobbiamo ripetere una cosa, che tutti i pezzi erano cantati da Bicio, poi Francesca ha dato la sua voce e l'ha interpretata alla sua maniera. Certo, bisogna. Se no non avrai cercato una donna. Esattamente, avessi continuato. Soprattutto non avresti cercato un cantante in generale. Benissimo, adesso suoniamo un altro pezzo perché siamo quasi verso la fine. Sì, che pezzo mi suonate adesso? Un pezzo del primo album. Divina. Ok. E mi capirai Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo finito purtroppo, la nostra cavalcata mentre Vizio sta accordando la chitarra, abbiamo finito. Adesso facciamo una cosa di prassi, dobbiamo ricitare tutti i componenti della band, come sono gli strumenti. Ma certo, vado io. Vai. Mattia, il più giovine, è la chitarra solista. Marco Paccia Salvemini alla batteria, il nostro metronomo, assieme a Riccardo Sgavetti. Fabrizio Bozzelli alla chitarra. Sono io. Sì, ecco, sei tu. E Francesco. Ai testi. E Francesco Tellini alla voce. Che sei te. Benissimo. Oui. Dove possiamo trovare il vostro disco? Innanzitutto il vostro sito, dai. www.babilonia.net. Esatto. Oppure cerca Babilonia con due O, attenzione, con due assolutamente. O sì. Perché Babilonia. Sarebbe Babilonia. Esattamente. E ci trovate su Facebook. Mm-hmm. Ci trovate su MySpace. Sempre Babilonia. Su iTunes ci trovate, su iTunes ci trovate, su Twitter esatto, ci trovate a dove? Casa del Bicio, anche a casa mia, affettiamo un salame e si mangia tutti si mangia volentieri, chiedetecelo esatto, volentieri. E il CD o il salame, tutte e due. Ok. E avete qualche data o presunta, c'è qualcosa in giro? No, adesso siamo fermi, aspettiamo. Oui. Con felicità tempo di trovare qualche data. Ma certo. Però ti dirò che sabato sera in concerto ci sono i Voodoo Lounge che fanno il tributo ai Rolling Stones a Monte Cavolo. Con esatto. Fabrizio. Esatto. Io ci vado solo per il chitarrista. Esattamente. Quale? Kate o Ronnie? Nicky. Perfetto. Ok, grazie a Michele Toson in regia. Grazie Michele. Grazie Michele. Ci sentiamo domani con Agostino con la sua trasmissione giovedì domani alle ore 21 e terminiamo con una chicca. Abbiamo citato i Rolling Stones, non serve presentarla, la conoscono tutti. Buonanotte a tutti, grazie ai Babilonia, Maurizio, a Francesca a e a Fabrizio. E proviamo. Mai fatto. Ciao a tutti. Proviamola. Ciao. Sì, ciao. Buonanotte. Wild horses. you drag me away? Wild horses, would you drag me away? Sin and a lie, have my freedom, but I don't have my style. Fever's been broken. Drag me away, wild horses. Could you drag me away? I Babilonia ringraziano voi per l'ascolto e Blu Radio Veneto per averci ospitati qui. Ciao, buonanotte.